l'hai invitato a una festa incredibile. Cosa? Domani lavori? E chi se ne frega? È una festa, è più importante. Alla fine, questa è l'Italia. Mangio pizza, guido l'auto, vedo tipe, tifo il calcio. Mangio pizza, guido l'auto, niente tipe, giù con l'alcol. Bevo troppo, sbucco in alto, sono sbronzo, mo mi schianto. Sono confuso, vedo doppio, ora smetto, dai giù l'auto. Auto, pizza e pallone, questa è l'Italia. Auto, pizza e pallone, questa è l'Italia. Auto, pizza e pallone, questa è l'Italia. Italia, Italia, questa è l'Italia. Italia, questa è l'Italia. Auto, pizza e pallone, questa è l'Italia. Italia, Italia, questa è l'Italia. Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, questa è l'Italia. Italia, yeah.